È Alessandro Milan, bellezza. E tu non puoi farci niente. Niente. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Grande citazione cinematografica del nostro ascoltatore nella presigla. Allora, siamo qui, cari ascoltatori, in diretta fino alle 11. Oggi vi annuncio già che abbiamo una puntata ricca di argomenti e con grandi ospiti. Intanto grandi, perché il mastodontico Albertone Forchielli tra poco sarà ai nostri microfoni per commentare quello che ha deciso l'Unione Europea, per parlare di tante tematiche sul rilancio, la ripresa dell'economia italiana, ma avremo ospite anche il presidente della regione Sardegna, Solinas, alle 9:30, visto che tanto si discute di questo titolo del giornale: guerra civile tra nord e sud per le vacanze. Forse guerra civile è un po' esagerato, ma c'è parecchia tensione. Io l'ho detto già ieri, da lombardo, da milanese: ragazzi, ma dove andiamo? Ma tanto, voglio dire, se anche riaprono tutto, sembra che ci stiano attendendo con come minimo degli sguardi di traverso. Ma io andrò tranquillamente, ho già anche approntato una mia tecnica che vi svelo tra un attimo. Me l'ha suggerita Lorenzo Nespoli, lo ringrazio moltissimo, insieme a Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti in redazione, a Luca Cremonese che è lì in regia vicino al nostro Alpino in regia. E allora la tecnica sarà questa, la svelo, vai Alpino. Enthusiasm about the future. 800 24 00 24 per intervenire, oppure 349 238 6666, WhatsApp, messaggi. La mia tecnica per le vacanze, punto tra l'altro ad andare in Sardegna, e siccome sono biondo e ho i figli biondi, ma di dove è lei? E boh, son di Lugano, son svizzero, son di Lugano. E andrò in giro così, dopo avere per tutta la stagione preso un po' in giro, bonariamente, come sapete, la nostra Elisabetta Fusconi. E bonza lo svizzero, dai! Vengo giù da Lugano! Tanto la Svizzera è neutrale, la Svizzera non disturba, la Svizzera va bene su tutto, la Svizzera va bene su tutto. A volte mi viene voglia di prendermi la residenza in Svizzera, a Lugano. Vedi, vedi, vedi, caro Alpino, anche il presidente della regione Campania De Luca lo sa, la Svizzera va bene su tutto. E boh, sarò lì probabilmente in giro, ma da dove vieni? Dai, da Lugano. Ma guarda qua i miei figli, Mattia, Angelica, da Lugano. E boh, siamo venuti qui in Sardegna. E Ale, e così metterò a tacere qualsiasi tipo di protesta. Comunque ne parleremo poi alle 9:30. Ragazzi, guerra civile non lo so, non è una guerra civile, però devo dire, sono volati un po' di stracci. È partito Sala, sindaco di Milano, a dire: mi ricorderò di quelle regioni che chiedono il patentino, tradotto la Sardegna e forse la Sicilia. Vai Sala. Magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere. Ora qui parlo da cittadino, prima ancora che da primo cittadino. Io però, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Poi oggi sulla stampa rilancia: siamo noi lombardi ad aver lanciato il turismo, contribuito al turismo storicamente in Sardegna. Vabbè, il presidente della regione gli ha risposto a stretto giro: stia zitto, lui e gli aperitivi fatti in epoca di primi contagi. Solinas sarà comunque nostro ospite alle 9:30, ma non è l'unico, Non è l'unico, perché anche De Magistris, per dire, sindaco di Napoli, è un po' scettico in questo momento. Vai. In questo momento, se dovessi decidere adesso, a mio avviso non ci sono le condizioni per consentire liberamente uno spostamento dalla Lombardia e dal Piemonte, in particolare verso le altre regioni. Giusto, c'è anche il Piemontesi, non pensate di scamparla, eh? piemontesi anche voi, e anche il presidente della regione Puglia, Emiliano, che non è che dice non venite, però fa notare un particolare statistico. Vai Emiliano. Io purtroppo ho delle notizie non buone, cioè gli ultimi contagi che abbiamo avuto in Puglia sono due persone che peraltro asintomatiche ed erano entrambe provenienti dalla Lombardia. Emiliano la mette lì, registro questo, gli ultimi due erano dalla Lombardia. Ah ragazzi, l'Italia unita, cosa ci tocca vedere, assistere per queste vacanze? Io mi sa che da lombardo, sì, mi fingerò svizzero, dico, boh, sono da Lugano, tutto a posto io, per cercare di sfangarla. Ma guarda qua chi c'è, torna con noi Albertone Forchielli, blindato nella sua Imola, nella sua umile residenza di Imola. Buongiorno, ciao Albertone. Ciao Alino, come stai? Io bene, l'ultima volta ti avevamo sentito preoccupato per il rischio coronavirus, invece no, insomma, stai sempre bene. Sì, ti ho sentito ho fatto il tampone serologico, sto bene. C'è sempre un po' questo abbassamento di voce, ma lentamente sta passando. Sta passando. Alberto, allora ci devi, a parte che oggi esce un tuo libro con Mengoni, ma dopo ne parliamo. Prima però ci devi aiutare a capire per tutto quello che sta succedendo, a cominciare dall'Unione Europea, la tanto cattiva Unione Europea. Insomma, abbiamo letto le cifre, all'Italia arriveranno 172 miliardi, 81,8 di trasferimenti, 99 di prestiti, a fronte ovviamente anche di cose da fare che adesso ti chiederò, alcuni invece a fondo perduto. Siamo capofila di questi investimenti. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo essere contenti, dobbiamo gioire, dobbiamo dire viva l'Unione Europea? È un piano, ovviamente va approvato. Tu sei contento? Dobbiamo esserne fieri? Beh, dal punto di vista europeo è un grande passo avanti, perché è una forma di mutualizzazione che non si era mai visto prima. Dal punto di vista italiano è un po' una supercazzola, capito? Perché questi 100, ammesso che siano sempre 170 milioni, non è che sono 170 milioni all'anno. Miliardi. Ma vanno su 7 anni, vanno sul ciclo di budget, per cui saranno 20 milioni all'anno, 20-25 all'anno, che per noi sono brustolini. Per il fabbisogno finanziario dell'Italia è poca roba. Sì, noi andiamo sempre miliardi, però giustamente tu dici se arrivano dal 2021, qualcuno dice, poi negli altri anni sono 20-30 miliardi l'anno. Sì, questo, per carità. Poi oltretutto non è che non li possiamo spendere come ci pare. Noi siamo così fieri della nostra autonomia, ma questi soldi vengono per progetti specifici. Dobbiamo negoziare. Forse anche giusto. Sì, esatto, cioè, non credi che sia giusto? Cioè, dovrebbero servire per digitalizzare, rendere la burocrazia meno burocratica, no? Snellire la pubblica amministrazione, riformare la giustizia. Sarebbero buone cose anche. Sì, ma però sono cose che dobbiamo negoziare con la Commissione. Ossia, se tu hai seguito la polemica sul MES, no? Questi 37 miliardi che sono condizionati, che ci creano. Beh, anche questi sono condizionati. Molto più condizionati dei soldi del MES, se ci pensi. Ossia, usiamo la stessa bilancia per fare questa valutazione. Sono, innanzitutto, su più anni. Secondo, vanno progetti specifici. Terzo, vanno negoziati. E ci pongo delle condizioni. Non possiamo decidere di spendere come ci pare. E soprattutto quindi noi tu sei contento a metà, dici, cioè attenzione, non stappiamo la bottiglia di spumante, ecco, del frigorifero. No, non risolve i problemi di fabbisogno nel 2021. Cioè, se ci viene a mancare la BCE, sempre secondo questa terribile sentenza della Corte Costituzionale tedesca, se dovesse mancare l'ombrello della BCE, il recovery fund non si può sostituire alla BCE come potenza finanziaria, capito? Non è un'alternativa. Sì, sì. No, qui c'è sempre il grande tema di vedere l'Unione Europea come un alleato, perché ne facciamo parte, che chiaramente dà dei fondi, però dice ragazzi guardate che avete una giustizia civile ingolfata, con tempi lunghi, avete degli uffici pubblici inefficienti, non siete digitalizzati come paese, avete pochi investimenti pubblici, allora noi vi diamo questi soldi, però queste cose voi le paese le fate. Che cos'è però? Cioè, tu questo lo chiameresti un ricatto oppure lo chiameresti una tiratina d'orecchie per dire cari italiani, mettetevi al pari su questi fronti con gli altri? No, è uno stimolo utile, no? No, è uno stimolo utile, giusto che l'Unione Europea giochi questo ruolo nei nostri confronti. Io non me ne risento mica. Io ce l'ho solamente con tutti coloro che entusiasticamente parlano del recovery fund, mentre noi rimaniamo con un grande problema di fabbisogno finanziario, che non sappiamo come chiudere. Questo è il problema. Poi, per carità, gli stimoli della Commissione sono utilissimi, tanto almeno quelli, capito? Tanto sembra no, che non riusciamo sentito, a Però hai sentito politici, lo stesso Gentiloni, l'abbiamo sentito anche poco fa in giornale radio, dire una svolta storica, cioè si usano delle parole molto enfatiche rispetto a questo piano che è stato proposto. No, no, è sotto certi aspetti storico, no? Perché mai prima, la Germania ci mette un sacco di soldi, ossia, appunto. È storico, no, è storico, ma non è definitivo, non è risolutivo per noi. Non è definitivo. Noi dobbiamo mettere a posto i nostri conti in modo brutale, questa è la verità. A questo proposito, ieri ci siamo sentiti e Alberto mi snocciolava alcune cifre che effettivamente mi hanno fatto un po' pensare, per esempio cosa ha investito l'America, cosa ha investito il Giappone per cercare di rilanciare l'economia interna che è sfasciata, come dire, a vari livelli nei vari paesi per questo coronavirus, e che cosa ha investito l'Italia. Ci puoi ripetere queste cifre a beneficio di tutti? Beh, gli Stati Uniti al momento hanno investito il 15% del PIL, che vale, l'equivalente per noi sarebbe come investire 270 miliardi, no? Ma noi non abbiamo investito tanto. Gli Stati Uniti con il 15% del PIL hanno 40 milioni di disoccupati, con una disoccupazione pari al 20%. Quindi, solo per dirti che in autunno arriverà un Armageddon in Italia, capito? Se mi chiedi come uscirà l'Italia, come uscirà l'Italia, cosa ha fatto l'Italia. L'Italia ha speso brustolini, neanche troppo bene, e tutti i problemi sono spazzati sotto il tappeto e ce ne ritroveremo pari pari quest'autunno, quando le imprese finiranno la liquidità, quando non avranno fatturato, quando dovranno chiudere, quando molti esercizi commerciali e turistici non potranno riaprire. Cioè noi il brutto lo dobbiamo ancora vedere, perché dei paesi che hanno già speso molto più di noi, che hanno speso quello che noi non potremo mai spendere, che sono messi molto male, però hanno anticipato i problemi e forse il resto potrebbe andare meglio per loro, per noi no. Sì. E questo è l'America, invece il Giappone mi dicevi come cifre? 40% del PIL, 40% del PIL, roba da pazzi. Ma questi soldi dove li prendono questi paesi? Perché sono fondi interni. Hanno l'87% del debito giapponese, è finanziato da giapponesi stessi, hanno liquidità interna, possono fare a meno di ricorrere al mercato dei capitali internazionali. Questo è il Giappone. È ancora molto complicato. Il Giappone ha un enorme avanzo finanziario con il resto del mondo. Quindi loro possono fare quello che vogliono con lo yen, perché tanto lo yen non si svaluta. Sì. È un'economia self-contained. Sì, cosa che invece noi non riusciamo a permetterci. Appunto, noi, quindi forse anche fare il paragone è un po' improprio perché sono diversi tipi di economie, quindi, certo. Quindi noi cosa potremmo fare in alternativa, non potendo investire tutti questi soldi nella ripresa economica del nostro paese? No, guarda, Alino, è inutile che io stia a dire, grandi ricette non ci sono, grandi soldi non ci sono. Potremmo spendere meglio quello che spendiamo, potremmo fare in modo che arrivi all'impresa almeno il credito delle banche, che sta arrivando male, però l'unico modo per risollevare il paese è lavorare di più e mettere la mano nei risparmi. Ah, mettere la mano nei risparmi. Italiani, sentite, mettere la mano nei risparmi. Ma perché, Alberto, hai questa cosa? L'hai detta varie volte. Chiamiamola patrimoniale, chiamiamola contribuzione maggiore per chi ha più soldi. Tu hai detto mille volte, io sono disponibile, avendo magari dei risparmi più o dei capitali più cospicui degli altri, a fare la mia parte di più degli altri. Cioè, mettere la mano nei risparmi degli italiani. Ma gli italiani che sentono questa cosa poi ti incrociano, dicono: oh, Alberto, i risparmi di mio nonno, di mio zio, di tutti i sacrifici che ho fatto per i miei nipoti. Io lo vedo inevitabile, guarda, Lino, non so quando, tra un anno, due anni, tre anni, ma lo vedo inevitabile. Cioè, cosa ti immagini? Un amato bis, un prelievo forzoso, cosa ti immagini? Ma una cosa del genere, sì, anche un prelievo forzoso, perché no? Sì, sì, una tassa sui conti correnti, sì. Attenzione, ma tu la vedi inevitabile o la vedi, o la appoggi, una scelta del genere? Perché sono due cose diverse. No, come faccio ad appoggiarla? Sono rassegnato al fatto che debba arrivare, perché noi non possiamo continuare a contare su un appoggio così incondizionato della BCE. La BCE non può continuare a spendere tutti questi soldi per sostenere il nostro debito, anche perché per far questo deve tenere i tassi di interesse bassissimi. Però ci sono tutti gli interessi, cioè i pensionanti tedeschi dicono: ma perché io devo non prendere niente sui miei risparmi che sto andando in pensione? Tutto perché il tasso di interesse deve essere basso per aiutare l'Italia, capito? Esatto, sì, come visto da ogni prospettiva è chiaro che l'operaio della Sassonia dice: ma perché io devo fare dei sacrifici per aiutare i miei amici italiani? Vabbè, Albertone, ti voglio chiedere una cosa anche, ma invece no, il governo come lo vedi in tutto questo, il governo italiano, come si sta muovendo, adesso che sei in Italia da un po' blindato? C'è un governo che chiaramente non può fare nessun tipo di riforma perché sono troppi vetri incrociati. Ha varato delle manovre di sollievo, non di stimolo, che sono più o meno come quelle degli altri. Deficitario sul piano del supporto alle imprese, perché ricorso a un meccanismo di liquidità che non fa arrivare molto credito. Sì. Lo vedo inefficace, inefficiente, ma senza alternative. Non è che un governo delle opposizioni sarebbe meglio, capito? Va bene, quindi teniamo Conte, ci dice in questo momento Conte. Alla fine teniamo Conte. Ti piace Conte? Non vedo Conte, alternative. Sì, sembra un marichino della Facis. Tu sai cos'è la Facis? Cosa che sembra un manichino della Facis? Sai che, ma tu forse sei troppo giovane. Una volta c'erano tre marchi di abbigliamento maschile: Lubian, Facis e Vittadello. E usavano quei manichini un po' protesi in avanti, con le mani così in marcia, nelle vetrine, li vedevi, no? Col trench, poi pubblicizzavano, facevano i vestiti, l'uomo in Facis, l'uomo in Lupia, no? Super classico. Ecco, sono usati quei manichini. Cioè, un po' ingessato, un po' ingessato, però, sì, però, così, però perfettino. Così, però... protesi in avanti, le due manine aperte, che sembra che stia marciando. Va bene, è anche un'immagine plastica, ma non per questo negativa, insomma. Allora Alberto, proprio oggi esce nelle librerie la tua ultima creatura insieme a Michele Mengoli, per Baldini e Castoldi. Ecco, visto che l'hai detta come prima parola, cosa ne pensi del piano europeo, una supercazzola, non a caso avete scritto il libro L'arte della supercazzola, lo trovate da oggi in libreria. Perché raccontate tutte quelle espressioni tipiche italiane che in realtà secondo voi nascondono una supercazzola, no? La supercazzola è diventata mitica in Amici miei. Cioè, per esempio, dacci alcuni esempi di supercazzole che senti propinate ogni giorno in TV. Fidatevi dello Stato. Fidatevi dello Stato. Sì, fare sistema, fare squadra. Fare sistema effettivamente si sente tante volte. Fare squadra, sì. E cosa c'è di male? Ma che non funzionano mai! Sono 50 anni che dobbiamo fare squadra. Non l'abbiamo mai fatta la cabina di regia. Ci sarà un motivo se in 50 anni. Lo dobbiamo ai nostri giovani. Giovani, Madonna, capito? Quando cazzo mai hanno fatto qualcosa per i giovani? Non fanno altro che aumentare le pensioni. Lo dobbiamo ai nostri giovani. Tu dimmi quando mai negli ultimi decenni questo governo ha fatto qualcosa per i giovani. Il governo italiano ha fatto qualcosa per i giovani. Ma quante volte è stato dichiarato? Lo dobbiamo ai nostri giovani. Quindi un po' smitizzate, smontate tutti questi luoghi comuni, si direbbe. Centinaia. E poi l'abbiamo messo su Facebook e tutti hanno aggiunto, capito? Cioè tutti sui social hanno aggiunto. Per cui è venuto fuori una specie di Zingaretti. Zingaretti detto non a caso, insomma, no, non c'entra niente in questo caso. Zingarelli, Zingarelli. Zingarelli, i luoghi comuni si potrebbe dire, o supercazzo effettivamente è più efficace, ma e chi secondo te, tu che hai navigato un po' in tutta, tra la prima e la seconda repubblica, qual è stato il periodo più denso di queste supercazzole? Questo è il periodo dove sarà un anno bellissimo. Chiedo un atto d'amore alle banche. Ma puoi scherzare, dai. Questi sono super cazzolari, al massimo. Mai un libro poteva essere più appropriato come timing. Questo soprattutto per le 5 Stelle. Siamo nell'era, il Movimento 5 Stelle per te, ecco, per farti gli amici, sono i principi della super cazzola. Assolutamente. Assolutamente. Conte è un maestro. Eccolo là. Ma avevi detto fino a poco fa, ne avevi parlato anche abbastanza bene, sì, un po' ingessato, però adesso... È un super cazzolaro incredibile, però, dai. Con questo, sono super cazzolari tutti, non voglio dire, però diciamocelo, no? Ragazzi, questo ha detto che sarà un anno bellissimo, il 2019. Si chiama Covid-19, io non so. E vabbè, quello è stata, come dire, un'uscita che non sapeva, non ha tenuto conto di quello che doveva arrivare. Porterà sfiga. No, non dire queste cose, che in Italia poi la gente ci crede alla sfortuna, mentre io combatto queste idee, insomma, della sfiga, sono cose che non voglio sentire. Va bene, Albertone, allora lo trovate in libreria, L'arte della supercazzola, Baldini e Castoldi, proprio da oggi, esce oggi proprio, no? Vabbè. Qual è la supercazzola numero uno, quella proprio che non sopporti, non digerisci così distinto? Fidatevi dello Stato. E perché? Perché lo Stato è il più grosso inculatore che esiste sulla faccia della terra. Eccolo lì, vabbè. Mai una volta che adempi, è sempre in ritardo, non paga i crediti, ma vuoi scherzare? Direi che con questa immagine abbastanza nitida e chiara possiamo fermarci. Albertone, io non ti ho chiesto niente di Hong Kong e Cina, ma torneremo su questo tema, perché so che tu sei stato uno dei primi a sederti a fianco ai manifestanti di Hong Kong in tempi non sospetti. Anche la Cina è una supercazzola, a modo suo. Cioè, in generale. Ti fanno credere che la Cina ci aiuti, ci aiuti col coronavirus, sia una potenza benefica per noi. Noi dalla Cina abbiamo preso solo che delle inculate. Praticamente. Abbiamo un deficit di 20 miliardi all'anno. Vabbè. Allora, dai, Albertone, ci sentiamo presto. Rimettiti. Ciao Alino, un abbraccio. Ciao. Ciao, ti prometto, Alberto, che la voce intanto sarà in forma la prossima volta. Ottimo, ottimo. Intanto un grande abbraccio allora, e dopo la pubblicità, insieme a Leonardo Manera che ci raggiunge, ci sarà anche il presidente della regione Sardegna, Cristian Solinas. Allora cercheremo di capire questa vicenda dei tamponi, delle patenti, dei patentini, chiamateli come volete, insomma, come faremo le vacanze tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Noi adesso stiamo partendo, saremo in grado di risollevarci da soli, senza il sud. Quale occasione per staccarci? Quale occasione? Ma va bene così? Sì, quest'anno facciamo le vacanze in Lombardia. Ci teniamo i nostri soldi in Lombardia. Facciano senza di noi. Tanto ci sono tantissimi altri bellissimi posti. Solinas, stai sereno, che tanto di danè per andare in vacanza, che ne minga. La risposta del sindaco Sala è stata la perfetta dimostrazione del perché in Liguria, come probabilmente in altre regioni, i milanesi sono sempre mal visti, o comunque visti con antipatia, per questa arroganza, per questo senso di superiorità presunta, questo senso di ciò che gli sarebbe dovuto. Va bene, il clima è un po' questo. Leonardo Manera, ciao Leonardo, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, benvenuto. Si può rimanere anche in Lombardia, c'è il lago di Garda, c'è Salò, si può nuotare nel lago anche se si può nuotare nel lago anche se molti hanno orrore dell'acqua dolce, ma invece anzi ci si mette più in forma, perché l'acqua dolce tiene meno a galla, quindi bisogna sforzarsi di più quando si nuota e vengono gli addominali, le spalle larghe. Nuotate nel lago. Ma è chiaro che effettivamente c'è un clima così anche un po' improvvisamente teso, addirittura il giornale titola guerra civile tra nord e sud, ma noi ne approfittiamo, Leonardo, perché abbiamo con noi il presidente della regione Sardegna e lo ringraziamo, Cristian Solinas. Buongiorno presidente, grazie di essere qui in diretta su Radio 24. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie per avermi invitato. Intanto le chiedo questo, perché ha sentito oggi Sala in un'intervista, sindaco di Milano, alla stampa, un po' rilanciato, ha detto: sono i milanesi che almeno in parte hanno inventato la Sardegna come meta turistica. Ora non dico che i sardi debbano essere riconoscenti, ma trattarci da untori no. Allora, la vogliamo chiudere questa polemica oppure no, presidente, dal suo punto di vista? Ah, dal mio punto di vista bisognerebbe chiedere a chi l'ha aperta. A me francamente non interessa tanto, e credo né ai sardi né tantomeno agli italiani, una polemica in questo momento. Qui non è in gioco il radical chicchismo da salotto per dimostrare chi è più o meno accogliente. Qui c'è un problema concreto di sicurezza sanitaria per tutti e di non discriminazione. Io ho detto con chiarezza che dal 3 di giugno la Sardegna vuole aprire le porte a tutti i turisti, senza fare alcuna distinzione di provenienza. Il sindaco Sala si è inventato una querelle sul fatto che la Sardegna non voglia milanesi o lombardi, che non esiste. Noi abbiamo ottimi e consolidati rapporti con il resto d'Italia e del mondo. La mia è una regione che ha il 14% del PIL tra turismo indotto. Quindi abbiamo detto con certezza che vogliamo invece offrire quest'anno la Sardegna non solo per le sue bellezze paesaggistiche e ambientali, ma anche per la sicurezza sanitaria, che sarà uno dei driver principali nella scelta della destinazione. Però il punto è come, presidente, cioè avete messo a punto questa proposta sulla questione dei tamponi, il sierologico, cioè io dal 3 giugno, se mai aprissero le frontiere ideali che non esistono, insomma dalla Lombardia, come faccio proprio tecnicamente a venire in Sardegna, cioè a cosa devo sottopormi? Guardi, si è fatto un parlare di una strumentalizzazione assolutamente assurda. Noi abbiamo detto basta la certificazione di un test che ci dica della negatività, quindi non c'è bisogno di un tampone, perché sappiamo perfettamente che i tamponi in questo momento sono e devono restare appannaggio delle strutture ospedaliste. Il tesserologico, magari. Noi abbiamo però chiesto, devo andare a farlo, voglio dire, devo prenotarmelo, farmelo ed essere oggi, negativo. Lei oggi in Lombardia, ad esempio, cioè, basta andare sul sito della regione, ha una serie di laboratori accreditati che lo fanno su prenotazione. E il test qualitativo costa 20 euro. La stessa cosa possono fare i cittadini del Lazio e della Toscana, dove è stato liberalizzato. Chi in questo momento non fa chiarezza è il governo, che dovrebbe dare una linea unitaria su tutto il territorio regionale e nazionale per dire con chiarezza che il cittadino con semplicità può andare in un laboratorio, nella farmacia sotto casa, dal proprio medico di famiglia ed eseguire quei test che il governo con l'autorità sanitaria AIFA o Istituto Superiore di Sanità deve accreditare, ci deve dire questi sono i test che noi riteniamo validi. Guardi, però, se io ho capito bene, il governo è un po' scettico, perché molti scienziati dicono sono inutili questi test, inutili nel senso che se io sono negativo oggi non è detto che non sia positivo domani, quindi io sono negativo, vengo in Sardegna, ma in realtà la malattia si manifesta tra 10 giorni, sono un negativo. L'alternativa però è niente. Cioè, noi abbiamo proposto un metodo, noi abbiamo proposto un metodo che per tutti i limiti che può avere screena almeno una percentuale di persone. L'alternativa di chi critica è nessun controllo. Però se andiamo su questa e lei questo non lo accetta, nessun controllo? Questo non è, nessun non lo controllo, non è che non lo accetti io, c'è una linea di tendenza a livello mondiale di cui l'Italia non si vuol rendere conto, che va verso questo. Lei pensi che le Canarie hanno fatto un accordo con l'Organizzazione Mondiale del Turismo, per cui dal 1 luglio arriverà il primo volo con passaporto sanitario digitale. In Corea del Sud, che è stato il modello di riferimento per tutti, perché ha gestito benissimo la prima fase dell'epidemia, bene, hanno fatto una prima riapertura senza controlli e hanno avuto i contagi di ritorno. Oggi hanno richiuso e riaperto pretendendo addirittura una certificazione medica per poter entrare nel paese. Ma è un tema che riguarderà tutti e non per un fatto discriminatorio, ma per un fatto di garanzia della sicurezza pubblica. Se poi si porta il ragionamento sul dire ma questi test non servono a nulla, bene, anche il tampone che viene eseguito negli ospedali ha una percentuale di fallibilità, perché per 2 volte su 3 nel procedimento c'è il fattore umano, sia in chi fa l'estrazione del tampone e se non lo esegue in maniera perfetta può dare un falso positivo o un falso negativo, sia in chi manipola prima di mettere nel processatore, e quindi se 2 volte su 3 può essere fallibile lo stesso tampone molecolare, stiamo parlando di un ragionamento che non ha senso, perché dovremmo concludere che non ha senso fare i tamponi, ma non è così. Lei non accetta il liberi tutti, ecco questo, quindi propone questo metodo. Per me sarebbe l'ideale. A Sala che dice ce lo ricorderemo, lei è un po' trascesa questa polemica adesso. Credo che abbia innescato una polemica veramente inutile, perché nessuno ha mai guardato in maniera discriminatoria nessuna regione. E mi sembra veramente una querelle da salotto di chi ha molto tempo da dedicare a queste disquisizioni inutili e poco da fare, perché lei pensi che se nessuno facesse dei controlli, se il governo deciderà di dire che il transito tra regioni è consentito solo se si ha lo stesso tasso di rischio, ci sarà l'intera regione Lombardia chiusa dal governo, non la regione Sardegna, mentre mio modello già dal 3 giugno chi certifica la negatività può muoversi, che sia lombardo, veneto, emiliano, campano. Quindi è un modello molto meno discriminatorio quello che propone la regione Sardegna, molto più semplice di quello che sembri. E mi sembra una strumentalizzazione politica quello di voler trovare degli elementi di impraticabilità. Aspetta Leonardo che c'è l'app che non funziona, devi ricollegarti. No, le chiedo questo, Presidente, ma mettiamo il caso che lo Stato dica questa non è recepibile questa proposta della Regione Sardegna, noi apriamo in maniera libera. Voi avete l'autonomia regionale, come reagirebbe lei? Accetterebbe questa decisione del governo? Guardi, ora le do due numeri, se mi consente, per capire a che cosa andiamo incontro. Io devo offrire al turista una regione in grado, qualora si verifichino delle positività, di dare una risposta sanitaria adeguata anche a chi viene a trovarci. E la mia preoccupazione è proprio in questo senso, poter garantire comunque che laddove ci sia un caso di positività, il sistema sanitario possa curare tutti. Noi ci aspettiamo, in caso di liberi tutti, 2,5 milioni di arrivi in Sardegna. Le statistiche più ottimistiche ci dicono che su 2,5 milioni di arrivi, nella migliore delle ipotesi, il 2% potrebbe essere positivo. 2% sono circa persone. Teme un'esplosione dell'epidemia in Sardegna. Cosa farebbe? Avrebbe degli atti amministrativi che potrebbe opporre, questo chiedo. Guardi, noi chiaramente vogliamo coniugare ospitalità e sicurezza, quindi la prima scelta rimane quella della certificazione di negatività, che non dà assolutamente patenti di immunità, perché non è possibile certificare l'immunità, ma ci dice con una buona percentuale di approssimazione quanti potremmo screenare e quindi evitare eventuali contagi. Qualora questo non fosse accettato dal governo, ma lo ritengo veramente incomprensibile, noi pensiamo di apparecchiare un sistema di controlli alternativi che consentano comunque di gestire la situazione. Chiederemo di poter continuare nel regime di registrazione per chi accede all'isola, in maniera tale da sapere con precisione dove queste persone sono allocate, così da potenziare gli strumenti di medicina del territorio, le USCA, le unità sanitarie di continuità assistenziale in prossimità, e da avere una capacità di risposta del servizio sanitario immediata è in grado di isolare eventuali cluster. Però le do un'ultima suggestione, giusto per capirci. Lei sa cosa succede, perché l'abbiamo visto in questi giorni in Sardegna. Se malauguratamente si dovesse trovare un caso positivo all'interno di una struttura alberghiera, attualmente per le norme stabilite, i disciplinari stabiliti a livello nazionale, io dovrei mettere in quarantena tutto l'hotel. Che succede con chi dovrebbe arrivare e trova la camera occupata perché sta finendo la quarantena? Problematiche concrete. Che vanno al di là dei ragionamenti, ripeto, da salotto che qualcuno fa. Io sono un governatore che deve governare e preoccuparmi delle cose e avere possibilmente anche la visione di capire quali possono essere le criticità domani. Nel ringraziarla, Leonardo Manera forse aveva una domanda, Leonardo. No, c'è anche da considerare il fatto che a quanto pare il virus sta comunque perdendo forza, e allora forse si spera anche in quello, cioè che sia meno grave. Questa è una speranza che tutti abbiamo, purtroppo da quello che ci dicono i nostri scienziati del Comitato Tecnico Scientifico ancora non c'è evidenza di un indebolimento del virus in sé, semplicemente stiamo raccogliendo i frutti di misure che sono state tenute a marzo e ad aprile in maniera consistentemente impegnativa per tutta la nazione, con il lockdown, con la riduzione della circolazione, quindi la curva è scesa perché non circolando le persone non circolava il virus. Il tema è cosa succede nel momento in cui tutti riprendiamo a circolare, riprendiamo le nostre abitudini in assenza di una dichiarata fine della pandemia, perché vorrei ricordare che ad oggi non è stata dichiarata la fine della pandemia e non è neanche in preventivo per le prossime settimane. Presidente, stiamo a vedere, intanto buona estate, ecco come sarà, ci saranno sicuramente degli sviluppi, sarà un'estate calda in tutti i sensi, noi la ringraziamo, Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per essere stato qui con noi, andiamo a sentire informazioni sul traffico e poi ci risentiamo. Uno, nessuno, 100 Milan. A parti invertite si sarebbero creati un ponte aerei per portare i pazienti dal sud a curare nel nord Italia. Spero che Lombardi, Veneti e tutti gli abitanti del nord se ne ricordino. Milan, ma dove volete andare voi Lombardi che avete ancora il 60% dei contagi in Italia? Se avete fatto le cose da Carlona non è che adesso potete venire subito a impestare noi in Romagna, che le cose le abbiamo fatte per bene, siamo a contagio quasi zero. Manera sbuffa, ma se tu sei un untore, caro Manera, stai a casa tua, anche se il professor Bassetti oggi, infettivologo, dice non ne posso più di fare il bastian contrario, ma intervistato al Quotidiano Nazionale dice l'Italia chiusa non ha più senso, il virus è debole, i catastrofisti negano i fatti, e cioè che anche i novantenni ora, da quanto veniamo noi a Genova, guariscono in molti casi. Qualcuno ha preso un abbaglio. Oh, ma non dirlo, Leonardo, perché sennò poi dopo ti massacrano. Cioè, infatti non lo diciamo noi, lo dice per esempio il professor Bassetti. Però, comunque io dico che sui test sierologici anche il governo dovrebbe fare un po' chiarezza. C'è quel vecchio detto popolare che dice piuttosto di niente è meglio piuttosto. Cioè sì, è vero che poi uno magari si può infettare se il giorno prima era negativo, può diventare positivo. Però insomma con una qualche validità ce l'avranno questi test, se eventualmente ci permettono poi di circolare. Ecco. Fa l'infettivologo, fa il virologo. Vai con la base allegra, vai con la base allegra. Ale. Vabbè, non è giornata oggi, ho capito. Allora, una delle cose che più ci sono mancate in questi mesi di blocco o di chiusura, per non dire lockdown, sono stati rumori. Quei rumori che tanto spesso detestiamo, invece stranamente in questi mesi ci sono mancati. Qualche giorno fa, parlando con un'amica psicoterapeuta, lei mi raccontava di una sua paziente che aveva uno strano problema. Quando fuori casa sentiva dei rumori, era colta da attacchi di panico. E non perché i rumori le dessero fastidio, ma perché sentire rumori che provenivano dall'esterno, mentre in casa sua c'era silenzio, le dava l'impressione di essere esclusa dalla vita vera, da tutto quello che succedeva fuori. Perciò i rumori sono un elemento fondamentale della vita, ormai ci siamo abituati, sono la colonna sonora delle nostre giornate. Le macchine elettriche, per esempio, faticano ad avere successo perché costano molto, ma anche perché non senti quel bel rumore del motore che ti fa sentire un uomo vero, e appena lo senti hai un picco di testosterone. Nel telefono, quello vero di casa, con la cornetta, sentivi il rumore di quell'affare che non so come si chiamava, ma che tornava indietro quando facevi il numero. Il cavatappi è bello usarlo perché alla fine senti lo stappo del turacciolo. Lo stappo del turacciolo dà soddisfazione, ti fa un po' godere. Il rumore del trapano, quando devi mettere un tassello nel muro, ti fa venire fuori tutto l'uomo scimmia che hai dentro, ti mette in comunicazione con la parte più profonda di te. Io quando ho un problema non vado dallo psicologo, comincio a trapanare e metto un tassello finché il mio vicino di casa arriva e si lamenta, ma è bello anche sentire lui che urla, è un altro rumore, è vita. E anche far l'amore è bello se è rumoroso, se senti il materasso che cigola, il letto che si muove, il lampadario del piano di sotto che sbatte furiosamente, altrimenti non c'è gusto. Sono i rumori il vero sale della vita, per questo la tecnologia a volte non dà soddisfazione umana, perché è perfetta magari ma silenziosa, senza anima, senza memoria, senza allegria. L'unico modo per ritrovare il sorriso con la tecnologia è ridarci almeno il rumore del modem. Quando c'era il rumore del modem è stata l'ultima volta che ci siamo sentiti veri uomini, altrimenti senza rumori abbiamo l'impressione di essere fuori dalla vita sotto una campana di vetro. C'è un racconto di Calvino, lo dico per Alessandra Tedesco, che se non sbaglio si intitola Qualcosa era successo. Il protagonista è su un treno e fuori dal finestrino vede persone che corrono, brigano, discutono, si affannano. E lui, il protagonista, ha la netta sensazione che sia successo qualcosa di importante, ma lui non sa cosa perché il treno, isolato dal resto del mondo, continua a fare la sua corsa. Forse per questo che appena possiamo cerchiamo i rumori, cerchiamo la cosiddetta movida, perché altrimenti ci sembra di essere come su quel treno, mentre fuori succede qualcosa e noi, uomini come tutti gli altri, ne siamo esclusi. Siamo esclusi dal resto della comunità umana, siamo esclusi in fondo dalla vita. Ci provo in tutti i modi a fare le scarpe ad Alessandra Tedesco, ci riuscirai. Rita da Palermo, buongiorno Rita. Buongiorno, chiamo appunto da Palermo, sono una nonna, Ho sentito il sindaco Sala, sono rimasta delusa. Solitamente, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile, ho molta stima per i sindaci perché si stanno prodigando molto. Però porrei al sindaco Sala una semplice domanda, niente di che. Se fosse stato al contrario, cosa lei, avrebbe lei fatto ha paura, io? Rita, ci dica, stima? Lei ha paura? Ha paura dell'estate, no, dell'arrivo perché... di brutti dal nord? No, quella è stata una realtà perché i primi contagiati, credo, adesso sa, io sono casalinga, credo che siano tutte le notizie, le apprendo perché da 10 anni seguo la vostra radio e mi fa compagnia. No, non paura, no, ho avuto tante tragedie per cui il virus, sinceramente, ho affrontato tante cose molto difficili. No, perché sa, certo, allora, è questo mi dispiace. Se fosse stato il sud con un elevato numero di contagiati, cosa avrebbe, lui detto, cosa Sala? Avrebbe fatto? Io penso che noi dobbiamo combattere il virus, non le persone. No, no, ma è chiaro, è una posizione molto, molto chiara ed è una domanda molto chiara. La sua è una domanda molto chiara, no? Perché dopo, se no, Leonardo mi accusa di sfumare, ma che ci sono dei tempi e sentite la sigla, c'è già il giornale radio che incombe. Ma la posizione di Rita da Palermo è molto chiara. Se fosse a parte invertite, Sala avrebbe accettato l'arrivo di tante persone dal sud. Certo, diciamo che nel turismo in genere il passaggio è da nord a sud più che da sud a nord, però lo avrebbe accettato? È una domanda lecita che fa Rita da Palermo. Venite a fare il bagno a Salò, Lago di Garda. Devo dare, ci sono, dobbiamo andare al giornale ci sono radio. I lucci poi vi racconto il coregone, luci, altro pesce di lago. Il coregone, certo. Poi vi racconto un episodio che mi è capitato ieri, ne sono stato vittima, insomma protagonista, mio malgrado, ero a fare un aperitivo, già così l'inizio racconto. Ecco, malissimo. Esatto. Ero a fare un aperitivo, già il racconto inizia come un giallo, potrei essere ucciso per questo. Giornale radio. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali. E nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Ecco il punto è che la regione non è in grado di offrire un sistema sanitario adeguato. È tutto lì, punto. Almeno il 90% di questi qui che ce l'hanno con la Sardegna, in Sardegna non ci ha mai messo un piede, tantomeno in Costa Smeralda, dai. Vabbè ragazzi, è la guerra, io ho detto non alimentiamo questa guerra civile, mentre gli ascoltatori sono tutti molto arrabbiati, nord contro sud, continente l'Italia è così, contro isole, è così. È un classico, è proprio lo specifico dell'Italia. Sì. Allora, dicevo, ieri, seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, ero a bere un aperitivo, tranquillo, sereno, già, distanziato. La premessa distanziato, non va bene. Distanziato, già la premessa non va bene. Perché sei uscito a bere un aperitivo? Perché non qui. Potevi. Certo, sempre una scusa si perché? Trova. Perché? Perché potevi berti un gingerino a casa tua, no? Andare sotto comunque a fare la movida. Ero allo spazio Nolo 43, facciamo da Jessica, facciamo pubblicità. Cioè, Nolo, quartiere di Milano Fighetto, no, spazio Nolo, quartiere di Milano Fighetto. Ero lì con la mascherina abbassata per bere, perché bere con la mascherina. È passata una signora diversamente giovane ed ero lì, è passata e ha detto... Ci volete ammazzare tutti. E io ho una testimone, che è Chiaretta, che è qui. Chiaretta, buongiorno. Buongiorno. Sì? Buongiorno Ale, buongiorno Leo. Assassina. se mi avete chiamato per, esatto, per farmi dare dell'assassina davanti a milioni e milioni e milioni, milioni di ascoltatori, assassina, metto giù immediatamente. Tu volevi ammazzarla? Tutti ci volete ammazzare, tutti. E Chiaretta, no, gli ha detto: senta signora, però se passeggia magari non l'ammazziamo. No. Allora, la cosa che mi ha colpito, io capisco la signora, attenzione, capisco, posso anche in qualche modo comprendere quelli che puntano il dito contro questa movida impazzita, sì, a parte che appunto parlare di me e movida nella stessa frase mi sembra veramente fuori luogo. Ma la cosa che mi lascia perplessa è che la signora, mentre ci additava, proprio letteralmente, proprio ci puntava il dito dicendo ci ammazzate tutti, stava lì, davanti a noi, a due passi, e io le ho detto: signora, però se lei deambula e continua con il suo passeggio, vede che nessuno contagia nessuno, no? Che il droplet è un attimo. No, ecco, quindi se lei continua a proseguire nella sua passeggiata... Ammazzate, tutti ci volete ammazzare. Io ho visto la foto che tu hai postato su Facebook e devo dire che il tuo sguardo, Alessandro, era di una persona che aveva già ecceduto con gli alcolici. Ma quindi, non è vero. Lo fa, ma è per quello che lo porto fuori. Senti, Chiaretta, non ti ho chiamato per distruggermi la reputazione. No, ma è per quello, Leo, che lo porto fuori ogni tanto, perché almeno non sta a casa, no, lo fa da solo. Allora io lo tengo sotto controllo. Vorrei solo sapere chi è il responsabile di questa scelta di fare movida lì in Viale Monza, cioè è stata una proposta di Ale o tua? No, allora, la proposta della movida in sé era mia. Poi per facilitarlo, perché è un uomo impegnato, gli ho detto: ciao, andiamo sotto casa tua. Ecco. Vabbè, quindi ammazzateci. Anche perché almeno vado a infettare altri quartieri, non nel mio. Certo. Esatto. Cioè, anche adesso lo metteremo allo spazio Nolo, lo suggerirò fuori con i tavolini: ammazzateci tutti, tutti. Lo striscione, così tutti coloro che passano possono additare quelli sui tavolini. Anche con un cartonato della signora diversamente giovane. Va bene, Chiaretta, ammonito. Ti ringraziamo moltissimo, grazie. Ciao, grazie, cari, però non giornata. Andare in giro a fare l'assassina, mi raccomando. Ma ci mancherebbe. Non più del solito almeno. Vabbè. Allora, ora però io, caro Leonardo, vorrei farti una sorta di regalo. Lo ringraziamo perché l'abbiamo chiamato. È un caro ascoltatore, Alex Russo, che ci ascolta, adesso ci dice bene da dove, ci ha scritto delle mail stupende. Anzi, Alexei, che tu hai chiamato alle 6, Leonardo, e noi l'abbiamo chiamato, che... eccolo qua. Sì, dove no, viene no, Alexei? Ciao. Buongiorno Leonardo, buongiorno anche agli ascoltatori. Sì, da dove ci ascolti tu? Alle 6, da dove ci ascolti Alexei? Ma praticamente io mi trovo, cioè, sono russo, abito in Russia e abito vicino al famosissimo, in tutto il mondo spero, lago Baikal. Ah, stupendo. Dove si può fare il bagno come sul lago di Garda? Insomma... fa la quinta parte di tutte le risorse idriche del mondo, anzi dell'acqua potabile del mondo, quindi immaginate un po' il volume di acqua, e ovviamente non si scalda molto facilmente, anche se nelle baie si può fare il bagno fino a 27 gradi, dicono che l'acqua, però comunque è più 7 quella media. Stupendo. Quindi... Ma veramente sei russo, Alexei? Sì, ecco, esatto. Perché sembri io un po' Veneto come cadenza. Ecco, no. Io vorrei far notare il livello di qualità, di padronanza della lingua italiana di Alexei, che dice: vi ascolto per migliorare la lingua, ma forse è lui che potrebbe dare lezione a me e a Leonardo. Magari. No, dicevo, cioè, che mi seguo ormai da 2-3 settimane, infatti per tenermi in forma con la lingua, tutto quanto. Comunque, cioè, tornando al discorso della stufa caldaia, se me la ricordate, volevo spiegarmi, sì, perché non era per errore, cioè, mi ha gentilmente corretto anche Andro, però comunque il discorso, cioè, ho sviluppato tutto un discorso ironico che suonava, se mi permettete leggo anche: le mie più sincere condoglianze per la tragicamente deceduta nella lotta unico con il famoso vaso di Pandora stufa a legna, addirittura, dove non avendo la stessa legna bruciavo le sue emozioni, il signor Manera, per avere un po' di calore in questo mondo così freddo e in testo. Cioè, Questo era l'originale. Stupendo. Questo era l'originale. In realtà, sì. In realtà, cioè, vi rendete conto la potenza della radio, cioè l'amarezza di Manera per la perdita di parte della sua caldaia è arrivata fino al lago Baikal. Cioè, volevo fare un test. Anche il lago Baikal si rideva dei 300 euro. Quanto è in rubli 300 non euro? Si rideva, no, non si rideva. No, beh, dai, no, un po' sì. Tutti. Un po' sì, dai. Un po' sì, dai. Volevo fare un test ad Alexei per vedere se conosce bene l'italiano, con qualche parola italiana, vedere se conosce il significato. Così facciamo anche un favore. Vediamo, vai. Per esempio, Alexei, cosa significa per esempio... No, parole semplici. Per esempio, cosa significa binzolare? Così. Binzolare? Manco io lo so. Ma questo non è... Cioè, se continuiamo a parlare non l'italiano, ma l'italiano dialettato dei... Proviamo un'altra parola. Bravo Alexei, binzolare non vuol dire niente. Proviamo un'altra parola. Proviamo. Orratulare. Cosa vuol dire? Ma se chiediamo qualche italiano, secondo voi risponde? No, ma guarda, beh, sì, sono parole di orratulare. Uso comune, sì. Io orratulai. Sì. No. Sì, è così. Guarda. Cioè, guarda com'è cattivo nell'animo, caro Leonardo, caro Alexei, il nostro Leonardo. Cioè, ti vuole prendere in giro, ma farlo parlare in russo? Ma farlo parlare in russo, divertiti un pochettino. No, vabbè, tanto. Ma io invece avevo scritto una parte che Alessandro poi ha omesso, non so perché. Quale? Vediamo. Ho scritto, leggo, adoro la vostra puntata anche per i bellissimi monologhi di Leonardo, che da ignorante trovo proprio dei capolavori. Visto Leonardo come Alessandro? L'ho omesso perché non voglio sempre tenere un po' in ombra Leonardo, non è che voglio dare questa glossa. No, faccio un'ultima parola. Devo dire che i monologhi di Leonardo Manera sono un qualcosa di che veramente sono la parte migliore della trasmissione. Ecco, adesso l'ho detto. L'ho detto. Un'ultima parola, Alexei. Cosa vuol dire findolo? Oggi mi sento findolo. Cosa vuol dire, Alexei? Ma niente, smettila, niente. Alexei, non vuol dire nulla. Stai tranquillo, non vuol dire nulla. Io invece so la parola che spesso usava Alessandro, rivolgendo a Leonardo, e lo chiamava complottaro. Sì, complottaro. Ecco. Esiste, sì. Complottare, no, è un po' un neologismo, no, però complottare. Del discorso che vorrei fare se non è finito ancora il tempo, non lo so. Vai, dici. No, diciamo che purtroppo nel mondo, in Russia anche, c'è questo, non so, movimento, come lo chiamiamo, cioè, pieno di persone, cioè, poi come diceva signor Manera, laureati su Facebook, infettivologi da divano, chiamiamo, che fanno queste teorie assurde. E quindi tipo i complottari. Non so, sì, tipo sono, dicono che il coronavirus non esiste, c'è un virus normale, ne muore lo stesso numero di persone all'anno. Bill Gates vuole chippare la gente col nuovo vaccino per controllarla. Sì. Riducendo la popolazione della Terra al milione d'oro, diciamo così, per così abbassare la produzione di CO2. Poi tutto con radiazioni di 5G e addirittura. E questa in Russia, anche in Italia c'è molto. Questa cosa del 5G in Russia ci sono molti che credono. Teorie. Direi ovviamente anche con 4G la stessa cosa c'era in giro. Quindi la gente. diversamente intelligenti, bravo. Alexei, guarda, noi adesso dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, ci devi salutare, ma ti chiamiamo quando vuoi qualche giorno, facci un bel saluto dal lago Baikal in russo, un'altra cosa. Sì. Perché il lago è talmente bello, andate un po' in internet a vedere le immagini Lago soprattutto Baikal. Del sì, inverno. Fai un invito a venire a fare le ferie al Lago Baikal, dai, in russo però, in russo. Va bene. Дорогие друзья, приезжайте на наше озеро Байкал, жемчужина Сибири и мира. Bene? Stupendo, grande, grande. Io qualche reminiscenza universitaria ce l'ho e quindi un pochino ho capito. Cari amici, andate alla venite al Lago Baikal da tutto il mondo. Va bene, grande Alexei, ti sentiamo presto, andiamo a sentire il traffico. Poi devo tirare le orecchie a Leonardo Manera, che come al solito ha detto una cosa per rubare il posto a Alessandro Tedesco e ha sbagliato. E va bene, i nostri ascoltatori, era di Buzzati il racconto. Sì, sì, qualcosa, certo, di Buzzati. Non di Calvino, sì, sì, sì, certo, sì. Ma smettila di dire le cose sbagliate e gli ascoltatori, io non lo sapevo e quindi anch'io, ma c'è stato un profluvio di messaggi a correggerti, sì, a dire di Buzzati, certo, sono quei lapsus, ma Buzzati Calvino, allora, sono uguali. Vuoi fare le scarpe Alessandro Tedesco e mi cadi sul racconto, ma sì, Buzzati Calvino hanno fatto cose simili, sono sì, simili, sì. Buzzati Calvino sono tre sillabe. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:21 minuti, dopo magari alle 10:35 dovremmo anche chiamarla a sto punto Alessandra Tedesco, perché io... No, comunque ammetto l'errore, almeno... ma è stato proprio un lapsus, sai, perché poi Buzzati Calvino sono quei classici che puoi confondere. Comunicazione facilmente. Di servizio, dopo la borsa chiamiamo Alessandra Tedesco perché non ne posso più, non ne posso più questa cosa. Allora, adesso però voglio dare spazio, lo ringraziamo al sindaco di Ivrea, che è con noi, Stefano Sertoli. Buongiorno sindaco, adesso lo recuperiamo, la linea è caduta. La questione è questa: a Ivrea, forse avete visto sui giornali, ci sono le scuole materne aperte all'aperto, nel senso che si fa in qualche modo lezione, ho visto anche oggi delle foto, i bambini all'aperto, distanziati. Sindaco, l'abbiamo recuperato, sindaco Stefano Sertoli, Ivrea, buongiorno. Buongiorno a voi, qui. A tutti i radioascoltatori, buongiorno. Allora, si può andare a scuola, certo in forma strana, in forma un po' rivisitata, ho visto delle foto all'aperto, distanziati, si può fare in qualche modo, però sono iniziative così singole, sporadiche. Voi cosa avete messo in piedi di Ivrea? Ma allora, si tratta di un esperimento, noi siamo partiti dalla forte richiesta di poter avere i bambini che avessero un'occupazione, soprattutto con la ripresa del lavoro per i genitori o magari anche per i genitori che continuano entrambi lo smart working. Quindi sì, al di là e di questa, però questa richiesta c'è in tutta Italia. Questa richiesta sindaco, c'è in tutta Italia. Noi abbiamo individuato due strutture nostre sul territorio che hanno dei giardini, quindi si tratta di outdoor assolutamente. Quindi abbiamo la misura della sicurezza perché sono recintate e chiuse. Sono piccoli numeri perché per ogni scuola abbiamo 10 bambini con ben 6 educatrici, quindi siamo andati oltre il rapporto richiesto, sì, suggerito dal DPCM, che è di 1 a 5, qui siamo a 1 a 3, quindi due gruppi che non hanno contatti fra di loro, i bambini arrivano, sono lì dalle 9 alle 13, quindi 4 ore, viene presa la temperatura, vengono disinfettate le manine, e iniziano la loro attività, che è un'attività essenzialmente ludica, cioè lavoretti, sì, sì, disegni, interagiscono. A riscosso, ma va bene, cioè, ma purtroppo c'è anche bisogno, a parte di socialità dei bambini, sì, è chiaro che non è che non è ancora una scuola, hanno fatte delle lezioni, no. Cioè, come si fa a sottovalutare l'importanza di iniziative del genere e di momenti del genere per i bambini? È abbastanza incredibile, noi battiamo su questo tasto da tempo, no? Sindaco, sì, la cosa carina è stata che gli uffici hanno individuato 400 famiglie sul territorio nostro che hanno bambini in questa età, quindi dai 3 ai 6 anni. È stato fatto un sondaggio telefonico su un campione importante, sono state chiamate circa 200 famiglie. Nel momento in cui abbiamo riscontrato questa forte richiesta, abbiamo reso disponibile per questa settimana, ahimè, solo 20 posti, abbiamo avuto una trentina di richieste. adesso contiamo proseguire l'esperimento andando a rotazione, quindi probabilmente offrendo questa possibilità ad altre famiglie. Il costo mi sembra abbastanza contenuto perché è di 10 euro al giorno a bambino. Vengono utilizzati come struttura scolastica soltanto i servizi in caso di necessità, non viene nemmeno utilizzata la cucina. I bambini, se vogliono, possono portarsi da casa la solita merendina confezionata o un frutto consumano in giardino. Ovviamente abbiamo l'incognita del tempo, perché in caso di maltempo purtroppo ci dobbiamo fermare. Qui ieri leggevo sulla stampa un asilo su tre rischia, o forse era anzi due, rischia di non aprire. Ci sono le prenotazioni, io ho un asilo vicino, conosco la proprietaria, le prenotazioni di solito a questo periodo del mese erano già chiuse, adesso arrivano forse una, due prenotazioni, ma non si sa niente. Per carità, nessuno ha voluto mettere il coronavirus, però una soluzione si dovrà trovare, altrimenti mettiamo molte persone in difficoltà dal punto di vista lavorativo e molte famiglie che non sanno dove lasciare i bambini, questo è dato di fatto. No, assolutamente. Questa è una decisione che avete potuto prendere autonomamente? È una decisione che abbiamo preso autonomamente dal momento in cui era uscito il DPCM e noi ci siamo rigorosamente attenuti alle norme del DPCM. Quindi non siamo lo potrebbero fare tutti. Mi sento di dire di sì, salvo prova contraria, se domani mi arriva, sto scherzando, ma almeno spero di scherzare, se mi arriva un avviso di garanzia per una roba del genere, ma non credo, insomma, sono state veramente seguite tutte le norme, sono scrupolosamente e rigorosamente seguite. E i genitori sono molto molto contenti. Ma certo, ma anche perché possono avere un attimo di respiro e soprattutto i loro figli possono godere di qualche ora in compagnia, esatto. Ecco, cioè di intrattenimento intelligente fatto da persone professioniste che li possono seguire. Sindaco, va bene, vedremo, insomma, io intanto la ringraziamo Stefano Serto. No, ringrazio io voi. La questione della scuola è centrale, io lo diciamo tutti i giorni, caro Leonardo, se non si capisce questa cosa finiamo non so dove. Certo, la questione dell'economia, della ripresa, ma la questione anche della scuola. Adesso però voglio farti sentire una voce, perché ieri è scesa in piazza, parlo all'Alpino, vediamo se in maniera telepatica riesce a capire, è scesa in piazza una signora, anche lei diversamente giovane ormai, ma ancora in forma, una signora che è un volto storico della TV italiana, ed è scesa a fianco dei lavoratori del mondo dello spettacolo per manifestare solidarietà, eccetera. Senti qua, caro Leonardo. Perché scusi, si può stare a casa e chiedere voglio questo, voglio quell'altro, no, sarebbe comodo, però non è possibile, è un'Italia in cui tutti chiedono, un'Italia di disperati, gli autonomi, voi pure siete autonomi, vero? A tutti quanti, allora qualcuno deve fare qualcosa. L'hai riconosciuta? Sandra Milo che è scesa legandosi. Senti anche qua, devi andare da Conte, ma è legata, si è incatenata davanti a Palazzo Chigi. Alessandro, ci fa entrare il presidente, ha detto possiamo entrare. Fa entrare. Vittorio, ti ringrazio, tesoro meraviglioso, ti richiamo fra poco, grazie di avermi chiamato, grazie del tuo sostegno, grazie. Sei grande, grazie. A dopo. Ecco, signora Milo, quindi la riceverà il presidente. Dai, signora Milo, vada a Conte. Ma io come arrivo sono legata. Come arrivo sono legata. Non si sa se l'abbiano lasciata lì, legata, come faccio ad andare da Conte? Infatti sarebbe, ho visto che qualcuno andava con le chiavi, credo, ad aprire il lucchetto. Una scena meravigliosa, ti aspetta Conte, tutti vanno e Sandra Milo rimane legata. No, scherzo, ti ha fatto piacere? Come mai non eri lì, Leonardo? Ti dico invece che sabato a Milano dalle ore 17 alle 20 ci sarà una manifestazione dei lavoratori dello spettacolo rigorosamente distanziati in piazza Duomo, alla quale parteciperò anch'io. Quindi questa tua polemica sterile che stava nascendo viene bloccata sul nascere qui a Milano in piazza Duomo sabato dalle ore 17. Ma verrò anch'io allora, basta stare distante da te per solidarietà, basta stare distante. Va bene. Bene, sabato dalle 17 alle 20, tre ore. Tutta la manifestazione dura quell'ora? Eh sì, perché ora che si misurano tutte le distanze ci vuole un po' di tempo, ci sarà un po' di gente, ora che misura che ognuno sia un metro e rotti dall'altro. In piazza Duomo. E invece, in piazza Duomo, bello. Sì. Va bene, bene. E invece, già che ci sono, finisco la promozione, sabato sera, dalle ore a partire dalle 18, ma poi per tutta la notte, ci sarà Zelig Covid Edition, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, in diretta dalle 21 alle 24, ci sarò anch'io, dove raccoglieremo fondi per chi ne ha bisogno nel mondo dello spettacolo. No, questo lo senti, ma come si svolge? Cioè, ognuno da casa sua si collegherà? Allora, sì, ci sarà Claudio Bisio a Zelig nel locale di Viale Monza, solo lui. Vanessa sarà invece a Follonica. Dalle 18 fino alle 21 si manderanno i video. Alle 21 comincerà la diretta, nella quale parteciperò anch'io, in cui parlerà con Claudio e con Vanessa come se fosse la puntata vera, insomma. Bello. E poi da mezzanotte ricominceranno poi i video. Tutto questo è visibile sia sul Facebook di Zelig che anche su una piattaforma di cui adesso non ricordo il nome, ma che vi dirò i giorni prossimi. Maestro, comunque, se cercate Zelig Covid Edition, insomma, c'è Zelig, arrangiatevi dove vederlo. Cioè, sappiate che c'è Zelig sabato, non rompetemi i maroni e andate a cercarvi come si fa a vedere. Sei meraviglioso. Un ascoltatore dice: ma perché tutte le volte che sbaglia Leonardo poi dice sì certo, faceva così anche durante l'interrogazione al liceo, quando... guarda che non era Napoleone, sì certo lo so, che vabbè, borsa, dai, ma sei vergognoso, chiamatemi Alessandra Tedesco, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi, vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Milan, ma dove volete andare voi lombardi che avete ancora il 60% dei contagi in Italia? Se avete fatto le cose alla Carlona non è che adesso potete venire subito a impestare noi in Romagna che le cose le abbiamo fatte per bene, siamo a contagio quasi zero. Signori, io sono lombardo e capisco anche i sardi, capisco i calabresi, capisco i romani, è giusto che abbiano paura. Perché il clima di terrorismo che c'è ancora in atto e continua ad essere in atto porta a questo. Ma ragazzi, ma voi cosa fareste se foste nei panni degli altri? È normale avere paura. L'ascoltatore russo parla come Zaya. Per me è Zaya che è scappato in Russia. Maledetti, ci volete ammazzare tutti, ci volete voi della movida. Maledetti! Maledetti! Ieri ero a prendere questo aperitivo con Chiaretta, è passata questa signora diversamente giovane, ci volete ammazzare tutti. Ci ammazzate tutti, ci ammazzate. Va bene, allora io ho dovuto fare questa convocazione, caro Leonardo Manera, perché se vuoi fare le cose, falle bene. Allora, vuoi fare le scarpe Alessandra Tedesco e prendere il suo posto nel mondo della letteratura di Radio 24? Fallo bene, cioè non puoi citare il racconto qualcosa era successo dicendo che è di Italo Calvino e invece racconta di Nuno Pizzati e farti... Tu tu sei come insomma, quelli che quando si indica la luna guardano il dito e non la luna, cioè io è la dimostrazione che l'ho letto, perché altrimenti non l'avrei citato. Poi il stato un miglior messaggio il miglior messaggio su questo è: Manera sta alla letteratura come Luchetti sta al lavoro. Perché dopo la rispieghiamo la tecnica Luchetti, ma intanto Alessandra Tedesco, non so se ti rendi conto, cara Ted, non so se ti rendi conto, ridendo. Ti vuol fare le scarpe ma non sa l'ABC, l'ABC. No, io questo lo so, pensa che ci sono degli ascoltatori che mi domandano ogni tanto, mi scrivono e mi dicono: ma Manera non è ancora arrivato? Perché ormai è notorio che Manera prenderà il mio posto al Cacciatore di Libri, quindi insomma gli ascoltatori se lo aspettano. Sì, però se queste sono le premesse, capite che a questo punto... Ma sta spaccando il capello in quattro, Calvino, Buzzati, sempre scrittori sono, c'ha ragione Manera, no? Ma ha ragione Manera, si conoscevano, si parlavano, perché, forse si sono scambiate qualche idea. Cioè. Sì, l'ultima volta, perché non avevo scritto nel pezzo l'autore, e al momento, mentre lo dicevo, mi è venuto da dire... Calvino, perché l'ultima volta, come forse ricorderete, avevo citato Le città invisibili di Calvino e quindi poi mi è rimasto impresso quello, ecco. E Alessandra, che adesso tra l'altro sta smettendo con la sua trasmissione, sa che questi lapsus possono capitare, ecco. Sta smettendo ma poi esiste Wikipedia, sta smettendo in che senso? No, scusa, sta smettendo con la trasmissione in che senso? Nel senso che la stai sostituendo o è così proprio? Ma ho sentito che Alessandra non è più tanto convinta di condurre quella trasmissione, che è un po' stanca, vorrebbe fare altro. No, sono diventata insicura, cioè Leonardo, di fronte a cotanta veramente sapienza nella letteratura italiana dei classici e dei contemporanei, io faccio un passo indietro. Io guardo, dopo l'esibizione... Vediamo se Manera la zecca, se io ti dico, a volte uno si crede un po' incompleto ed è soltanto giovane, chi l'ha detto? Salinger, Salinger. No, vabbè, niente, perché, basta. Perché mi Salinger va bene su tutto. Perché Salinger va bene. Comunque, se tu avessi Google sotto mano, insomma, sì. È proprio Calvino. Insomma, il Visconti è dimezzato. Questo lo dice lei. Questo. Io invece devo dire che, proprio vista l'esibizione di oggi di Leonardo Manera, tu puoi dormire tra quattro guanciali, cara Alessandra Tedesco. Anche cinque. Il programma è tuo in maniera perenne. Io vi ringrazio, non ho parole, veramente sono commossa. Leonardo, grazie per aver fatto a questo punto tu un passo indietro. Io posso continuare a condurre il Cacciatore di Libri, però insomma tu sei sempre graditissima ospite se vuoi intervenire. Verrò a fare il tirocinante casomai. Vediamo, hai un ultimo consiglio, Leonardo, di un libro che non hai letto, ovviamente, con la solita tecnica, tu lo consigli? Ma no, io non li leggo mai, leggo solo la quarta di copertina, ovviamente. Vediamo un po', sta cercando, ha alzato lo sguardo, sta cercando la libreria. Sta cercando, lascia stare la collezione di Leore e Playmen, vai più sulla destra. Ho solo quelle. Ecco. Ah no, ce l'ho, bello, ecco. Bello, che sicuramente Alessandra conoscerà perché anche questo è un classico. Vediamo. Ne consiglio due, Cuore di cane di Bulgakov. Ah, certo. Questo è un super classico. E l'altro invece è di Guy de Maupassant, che secondo me è interessante anche nell'ottica che stiamo vivendo in questo periodo. Si chiama Palla di Sego. Ed è l'atteggiamento delle persone quando si trovano di fronte a un problema, che sono pronte a sacrificare un altro pur di salvare se stessi. Questo dice la quarta di copertina, ma all'interno esattamente. All'interno, quale dei due non hai letto, entrambi ti ispira di più da suggerire agli ascoltatori? Perché possono palla iniziare di sego, Bulgakov, palla di sego. Oppure... No, di Guy de Maupassant, Palla di Sego è veramente interessante, poi è anche piccolino, non sono tante pagine, sono un centinaio. Bene. Anche scritte larghe. E quindi, invece Cuore di Cane è un po' più lungo, però ho letto entrambi, dai, più o meno. Beh, di Cuore di Cane ci sono anche tanti riassunti appunto su online, perché insomma è un classico, quindi uno può leggere il riassunto e dire l'ho letto, sì, esatto. Sì. Brava Ted. Mi ricordo anche come si chiama il cane. Mi sembra, e poi verrò forse tramortito dalle critiche, ma se non sbaglio il cane si chiama Pallino. o pallina, attenzione. Bravo, bravo. Oh, vedi che l'ho letto, quindi vengo riabilitato immediatamente. Sì, sulla quarta di copertina ci sarà scritto anche il nome del cane. Cioè non è no, che... non c'è il nome, ho aperto una pagina a caso. Cara Ted, ricordaci gli orari della tua ancora per poco, anzi ancora per molto, questo punto trasmissione. Il mio subentrerà Leonardo Manera, andremo in onda ogni sabato mattina alle 6:30 per i mattinieri, alle 15:30 per tutti gli altri e sempre disponibile in podcast, ormai è un mantra questo. Grazie. Invece io faccio un passo indietro, visto che sono come Dory, il pesciolino che dimentica tutto, ma nel salutare la collega Maria Piera Ceci, voglio segnalare, a proposito di scuola, visto che abbiamo affrontato il tema della scuola con il sindaco di Ivrea, che sul sito di Radio 24, quindi radio24.it, ci sono tante puntate dei podcast di Verso il futuro e oltre, fatte appunto e curate da Maria Piera Ceci, tutte dedicate alla scuola, al metodo Montessori, insomma tante tematiche da approfondire, perché abbiamo anche un sito in cui si possono approfondire cose che magari non avete ascoltato in onda. E allora, caro Leonardo, a questo punto la tua figuraccia anche oggi è stata fatta, è stata montata. Ti faccio notare che mi sono riabilitato con Pallinov, ecco. Questo, tu dimentichi con la V, non ricordo se Pallino o Pallinov, perché è russo. Pallino perché Pallino, perché Bulgakov, ma perché magari, è russo. Pallinov potrebbe essere, ma guarda. No, è Pallino. Ma perché tu hai letto la traduzione italiana del libro. Se lo leggi nell'originale russo è Pallino. Sì, si chiama così, Pallinov in russo. Non credo proprio. Ci sarà il corrispondente. Richiamiamo Alexei. No, lasciamo stare. Richiamiamo la Ted. No, dai, basta. Basta. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Vabbè. Comunque, essendo Manera calvo, può citare scientemente Calvino. E va bene, anche questa ci ha detto un ascoltatore. Allora, hai capito bene la piattaforma sulla quale si trasmetterà tutto quanto? No, non ho guardato, non ricordo, ma se andate a cercare Zelig e Covid l'ho trovato. L'ho trovato. Vabbè, dai, fatti da parte, caro Leonardo, perché torniamo a parlare un po' dal punto di vista scientifico di coronavirus, perché è venuto a trovarci il nostro virologo. Tutte le trasmissioni hanno un virologo. Noi abbiamo il professor Picchio che è con noi. Buongiorno, professore, e grazie. Sono il professor Piero Picchio, buongiorno, eccomi qua. Allora, caro Milan, ho pochi minuti, diciamo il numero di minuti pattuiti col mio agente. L'avverto che se sforiamo anche di pochi secondi si paga il minuto completo, come nei parcheggi. Noi virologi Perché non la paghiamo? Ma certo, lei non è al corrente, io vengo retribuito, perché noi virologi siamo le star del momento, ci vogliono tutti. Anche lei ha fatto bene a invitarmi, perché noi virologi siamo gli unici che possono dar risposte chiare sul coronavirus. Quindi sono qui per dare risposte. Lode a teo virologo. Certo, lode a teo virologo. Per dar risposte chiare agli ignoranti all'ascolto, tutti quelli che non sanno nemmeno cos'è, per esempio, la nucleosfomina. Voi non lo sapete cos'è la nucleosfomina. Effettivamente io non lo Questa so, massa di ignoranti non sapete cos'è la nucleosfomina. E avete diritto di voto, per forza che il paese va male. Io invece lo so, perché ho studiato cos'è la nucleosfomina, e tu vuoi votare anche senza saperlo. Ignorante. Grazie. Allora ripetiamo un momento, lode a teo virologo. Io so cos'è la nucleosfomina e voi no. Allora, io no. Partiamo dalle basi. Cos'è l'acetilazione degli stoni? Acetilazione degli stoni, eh? Ignoranti, non lo sapete, io lo so. Allora vediamo, se proprio volete posso rispondere alla domanda di qualche ignorante. Vabbè. Vediamo, ecco, c'è qualche per esempio, domanda? Sì, certo, come no. Guardi, Antonio da Ancona ci scrive questa domanda. C'è il rischio di contagio all'aperto, professore? Allora, caro Antonio ignorante, io ti rispondo chiaramente che al chiuso un metro di distanza non basta, mentre all'aperto un metro di distanza potrebbe bastare, ma due sono meglio, quindi perché non fare 3, 4, 5, 6 per 7, 42, beh, più 2, 44? Sì, punto, sembra un po' una teoria. Caro ignorante, adesso arriva l'estate, fa caldo, sì, ci sono le zanzare, quindi la cosa migliore qual è, caro ignorante? Stare a casa, eh? Anche se vi hanno detto che potete uscire. State a casa, possono trasportare, chi lo sa, forse anche quelle possono trasportare il virus. Quindi state a casa, ignoranti all'ascolto che fate gli assembramenti sotto i portici. A casa! Non sapete nemmeno cos'è la scissione binaria? Non lo sapete? Io no, sì. Io no, no. Non sapete cos'è la scissione binaria? Ma non si deve divertire così per il fatto di sapere delle cose ignoranti che ha studiato. Vabbè, siete tutti cresciuti a calcio e veline, fate le vostre pizze in casa, bravi, bravi, bravi. La pizza, la pizza, buona la pizza col crostone alto, guardando la partita del campionato tedesco. Sì, sì, perché poveri, ci sono quelli adesso. Poveri, sì, ignoranti. Allora, scusi professor Picchio, c'è un'altra domanda, pizza c'è Filippo. Calcio, pizza e calcio e non sanno cos'è la scissione binaria. Filippo da Reggio Calabria. Filippo ci chiede. Che bel nome, Filippo l'ignorante. Allora cosa vuoi? No, Filippo? No, veramente Filippo da Reggio Calabria vuole sapere una domanda, sì, che si pongono tutti nel mondo. Filippo, ed è semplice. Filippo chiede: troveremo, sì, il vaccino, caro professore? Ma caro Filippo, sicuramente non lo troverai tu, ignorante. Va bene, ma lui non lo, ma lui non lo povero vuole trovare. Ignorante, troveremo il vaccino, sicuramente non lo troverai tu, ma magari tu, neanche lei, professor Filippo. Picchio. Non possiamo contare su di te, è vero Filippo, avresti potuto studiare, trovare il vaccino, invece sei lì sul balcone a prendere il sole, con l'infradito, ma no, magari, pretendendo ma che gli altri sta... trovino per te il vaccino, eh? No, tu vuoi fare l'aperitivo, pensi di essere a Formentera e invece gli altri no, devono lavorare Calabria, per te, Filippo, certo, ma pensi di essere a Formentera, stai a casa, eh? Stai a casa intanto che gli altri si preoccupano per te di trovare il vaccino. Allora, vabbè, quindi la risposta, sì, lo troveremo? Non si stai sa. A casa, no. Stai a casa, stai a casa, lo troveranno forse risposta, gli altri, sì, per te. Caro, vabbè, c'è anche Laura da Bari, vogliamo dare retta anche Laura da Bari. Laura, cosa vuol fare, sì, Laura? Vediamo. Laura da Bari chiede: facendo il bagno al mare, caro professore, sì, si rischia il contagio? Laura, eccola qui, un'altra che ha già pronti i racchettoni, pim pum pim pum, vuole andare... E vabbè, che male c'è, scusi, vuole professore. Andare anche lei con i racchettoni sulla spiaggia, cosa facciamo adesso che siamo ustionati? Giochiamo racchettoni, che ci divertiamo, pim pum. E magari sarà vietato, tra l'altro. Il trionfo dell'ignoranza. Allora, no, cara, da dove? Da Bari, da Bari. Allora, Bari, cara Laura, Bari, ignorante da Bari, io ti rispondo chiaramente che l'acqua di mare non è un problema e nemmeno la sabbia, ma per essere davvero sicuri è meglio andare in montagna, dove tra l'erba e i pascoli è più facile mantenere il distanziamento. Certo, non c'è niente di meglio che girare il deserto della Patagonia in bicicletta da soli, soprattutto se si parte da qui in bici e non si prende l'aereo. Per questo che ho consigliato al governo di dare il bonus bicicletta, così tutti potremo, sì, andare in Patagonia da soli a passare, sì, l'estate. Quindi l'alternativa a quello è stare, sì, a, stare casa. A casa. Anche tu, Laura, invece di voler andare a giocare con i racchettoni sulla spiaggia, in bikini, per cercarti qualcuno lì sulla spiaggia con cui accoppiarti, in modo ma animalesco. Adesso gioca a racchettoni per farsi vedere mentre si muove per cercare degli uomini, Laura. Vai a studiare piuttosto. Ma perché? Magari ha studiato, magari ha due lauree. Massa di ignoranti, il popolino, il popolino che vuole andare in spiaggia, il popolino si vuole divertire, vuole andare al mare a giocare a racchettoni, ignoranti, che bestie senza cervello. Vabbè, la ringraziamo. Abbiamo, cos'è la non vorrei sforare il cito. Lei non sa nemmeno cos'è il citoplasma, cos'è? Lei non citoplasma, sa nemmeno cos'è il cito. Forse pensa che sia un tipo di schermo della TV, uno schermo al citoplasma. questo è il suo livello di preparazione. Cos'è? Guardi, quello non l'avrei mai pensato. Il... cos'è il ribonucleotide? Lo ribonucleotide, fammi vedere. Pensa che sia un supereroe, l'uomo ragno contro il ribonucleotide. Cleotide, lo so, è il monomero. È il monomero, ho studiato, dell'RNA. Ogni ribonucleotide è costituito da tre parti: ha una base azotata, uno zucchero ribosio e uno o più gruppi fosfato. Vede che ho studiato? Ho studiato immediatamente. Ho studiato, professor Picchio. Va bene, la ringraziamo. Signor Wikipedia, io non vorrei... abbiamo qui il signor Wikipedia. Gli altri studiano sui libri che abbiamo Alessandro Wikipedia. L'ignoranza del popolino. Sì, e la ringrazio molto. Non vorrei sforare sui secondi, che poi dopo le dobbiamo pagare un minuto in più. Ma quanto la paghiamo, per curiosità? Noi non vorrei chiedere alla Alessandra Scaglioni. Queste sono questioni volgari. Sono questioni volgari e non intendo parlarne con lei. Il denaro è una questione volgare. Basta che lei non ne abbia parlato con un noto chef emozionale. Che devo andare, prezzi. Quello lo conosco, guardi, lo conosco molto bene. Ogni tanto mi capita di andare a frequentare la sua dimora culinaria. Adesso devo andare. Devo firmare qualche protocollo, un'intervista su una TV americana. Ho deciso di prendere un volo per Miami, così già che ci sono mi faccio anche un giro per negozi e un salto in spiaggia. Io posso, perché ho studiato. Lei può aver studiato. Professor Picchio, la ringraziamo molto. Sì, virologo, sì. Lode a Teo virologo. Grazie. La salutiamo e ci troviamo domani, Uno, nessuno, 100.000.